costantemente asfissiati da una situazione di oppressione ideologica. Di conseguenza noi vogliamo anche portare un momento di tranquillità e portare avanti una lotta che possa, per l'appunto, forse essere, come diceva anche lei, un primo passo per un qualcosa di più grande in città. Peraltro, ragazzi, complimenti per il look. Direi che la festa è pronta per iniziare. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille, arrivederci. Ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. Allora, poi chi siete? Tu sei Miss Gender? Miss Gender e Miss Andrea. Andrea. Adesso saranno le esibizioni di Miss Gender e Miss Andrea. Perfetto, noi facciamo tutta la diretta in pratica, ogni tanto vi possiamo venire proprio a intervistare dietro le quinte. Cosa faccio? Mi metto qua dietro? Sì, esatto. Ok, facciamo così. Ti ringrazio, allora, un po' così qui. Ciao Raffa. Brava. Allora, ci siamo. Allora, come ti sente, Anna? Come si sente? E vi invito a spostarvi verso questa zona qua perché lì c'è il free market dei vestiti. Se avete vestiti vi invitiamo a lasciarli lì e spostarvi in questa zona. Ciao, posso chiederti di che gruppo fai parte? Di che gruppo fai parte? Como Pride. Quanti siete che avete organizzato quest'anno? Ci siete solo voi come sigla o ci sono anche altri che hanno colore? Ci sono delle associazioni che hanno aderito al progetto, come per esempio Arci, o anche Intersezioni, così come anche fatti con noi che sono fatti in piazza oggi. Hanno dato un sostegno aiutandoci a spargere la voce, perché siamo partiti dal basso, dal nulla praticamente, e abbiamo creato tutto questo in poco più di un mese. Siamo un gruppo di giovani, studenti, alcuni lavoratori, che dal nulla appunto siamo riusciti a portare in piazza un sacco di persone, un una cosa che a Como manca da 22 anni e cercheremo anche in futuro di essere una realtà che è attiva sul territorio, comunque rimanendo alle stesse prime. Un'ora e mezza. Hai visto il video online del Pride di 22 anni fa? Sì. Io? Sì, no, bisogna documentare sempre tutto perché sennò non rimane nulla per gli altri. Scusa, posso chiederti il tuo segno? Il tuo segno, il... Sì. Tu cosa sei? No, no, no. LGBT. Ah, la definizione. Il segno zodiacale. Esatto. Io sono bi, pan e non binario. Un po' tutto. Stai studiando ancora? Sì. Cosa? Il sarcastico. Qua Como? Quinta? No, seconda. Oh, seconda? Ah, che stangona. Sì, ho capito. Dopo questo Pride, secondo te ci saranno delle riunioni, ci saranno possibilità che continua questo, cioè come associazione, come Como Pride andrete avanti o ci saranno delle... Senza dubbio, noi abbiamo anche delle rivendicazioni che abbiamo intenzione di portare a termine. Rivendicazioni che esporremo e spiegheremo tutti ora in piazza e che abbiamo intenzione durante l'anno e durante i prossimi anni di concretizzare il più possibile. Bene, bene, bene. Niente, ti ringrazio. Grazie a te. Viene qualche altra domanda, tanto è diretta fino alle 7 se riusciamo. Dopo magari ci Radio Arcino Erus. Sì, sì, se vuoi dopo riascoltarti sarà lì il file. Dai, grazie. Ciao, grazie. Sul prato centrale, ragazzi, lasciare le vie d'uscita libere. Di espressione che è già tutelata dalla nostra istituzione. Quindi, ma ti sembra che la nostra città sia ancora molto chiusa sotto questo punto di vista, che ci sia ancora tanto da fare per, come posso dire, far allargare lo sguardo a chi ancora non vuol vedere una situazione che comunque è naturale, fa parte, come posso dire, della natura umana e che è sotto gli occhi di tutti. Diciamo che c'è molta ipocrisia su questo argomento, ma in generale sui diritti delle persone, perché questa non è una sfilata e non è un carnevale, è semplicemente la rivendicazione dei diritti di tutte le persone. Cristina, per te sta tutto. Alessio. Ecco, lo sapevo che avrei sbagliato Alessio. Scusami, c'è tanta gente, c'è un po' di confusione. Alessio, per te è stato difficile, come posso dire, essere te stesso nella tua vita personale? Allora, diciamo che ho incontrato moltissimi ostacoli nella mia vita, ma ho avuto l'appoggio di tantissimi amici e familiari che hanno capito che la libertà è impagabile, che siamo tutti uguali di fronte alla legge e manca solamente una legge che ci tutela. Iniziamo okay. Tra 10 minuti, allora, ragazzi. Come dicono adesso gli organizzatori, si inizierà fra 10 minuti. Un po' di casino che iniziamo tra 10 minuti. In realtà ecco qua, c'è un urlo giustamente che fa iniziare bene la manifestazione. Dicevo, l'evento durerà fino alle 20 di questa sera, quindi ci sarà veramente tanto. Noi con la nostra diretta saremo più un'oretta, poco più. Però volevamo anche noi, come dicevo, essere presenti per darvi man forte, quindi c'è molto bisogno. Allora, chi ha organizzato tutto questo? Come fatto a sapere che oggi sarebbe stato il Pride? Beh, io diciamo che ho un sacco di amici e associazioni così, ma l'avevo visto sui social, è stata una cosa molto improvvisata, ma a quanto vedo c'è tanta gente perché abbiamo veramente voglia di dire basta all'omofobia, perché le discriminazioni sono sempre sbagliate ed è ora che scendiamo tutti in piazza per dirlo ad alta voce. Grazie Alessio, sei stato molto gentile, siamo stati contenti di iniziare la diretta insieme a te. Grazie. Qui abbiamo Raffaele. Oh, ciao Giuseppe. Chi sei, scusa? Raffaele Faggiano. Raffaele Faggiano, sì, stavo dicendo giusto, dico, va bene la mascherina. Tu sei qua come, posso dire, come rappresentativa di tante sigle, come si dice in questi casi. Sì, e che tu, dille tu tutte le tue. Sì. No, vabbè, ufficialmente come coordinamento nomofobia di Como, poi come Arci, logicamente, con il circolo che rappresento Noerus, che ha la bandiera anche lei con il simbolo della pace, che ha le strisce colorate. Noi siamo qua in rappresentanza per vedere questa tanta tanta gioventù che di sicuro vuole qualche cambiamento in questo paese, di sicuro, perché in effetti ormai erano 22 anni che non avevamo una festa del genere, i ragazzi hanno avuto il coraggio di metterla in piazza e per il momento mi sembra che loro siano contenti, sì, di quello, sfidando che... un caldo veramente cocente che c'è oggi, però come dire un caldo un po' meno afoso del solito, è un po' ventilato, diciamo che anche sotto questo punto di l'umidità, vista l'umidità poi sul lago non può mancare. Raffaele, come posso dire, parliamone senza mezzi termini in attesa che inizi la manifestazione. Come, quanto indietro sotto certe tematiche che appunto riguardano l'intero mondo LGBTQS e quanto soprattutto c'è da fare per cercare di, come diciamo prima con il ragazzo di prima, allargare un po' la mente e far spaziare un po' attraverso varie realtà che poi non riguardano degli alieni o chissà quali altre persone, sono i nostri vicini di casa, i nostri figli, i nostri parenti, il nostro lattaio, il nostro farmacista. Ovviamente chi non ha una persona che è toccata da queste tematiche? Ma penso che la cultura del comasco, guardandoci negli occhi, sai benissimo che ci sono delle grosse problemi ancora in questo senso, nel senso che la discussione è ancora ferma, anzi in questo momento rischiamo anche di tornare indietro. Diventiamo anziani più ci rendiamo conto che questo problema sta tornando ancora pesantemente. Chiunque non si sentisse bene, attacchi di panico, di ansia, ragazzi, noi siamo qua, vi diamo acqua gratis, assistenza, quindi avvertiteci. Una certa organizzazione che è distribuita acqua a qualcuno che non stesse bene appunto per i problemi di caldo o attacchi di panico o cose di questo genere. Diciamolo, per molti di questi ragazzi giovanissimi l'essere qui in alcuni casi può essere anche un modo di venire allo scoperto, no? Di tirar fuori quello che magari nella vita di tutti i giorni non gli è facile manifestare. Sì, quello che sto notando io è proprio che questa generazione vuole affermarsi in questo senso e purtroppo non c'è stato come quell'humus da poter portare avanti che in 22 anni non siamo riusciti a ottenere di una sensibilizzazione tale, sappiamo, per l'impostazione della città, per una serie di persone che riescono comunque a decidere loro al posto degli altri, e quindi c'è una politica che purtroppo abbiamo riscontrato che l'emergenza dovrebbe essere già finita. Quindi ci sono delle situazioni che proprio le associazioni in questo momento si trovano ad affrontare, piuttosto che i gruppi di volontariato, piuttosto che questi ragazzi che vedo come singolo, che potevano esserci qui anche altre sigle, no, ufficialmente. Ecco, come mai mancano? Perché alcuni hanno proprio osservato che mancano anche delle sigle abbastanza di solito presenti quando si tratta di manifestare sotto questo senso. Ma sai che in questo cerco sempre di essere abbastanza analista per andare a capire quali sono le cose giuste da fare, evitando sprechi, evitando... E penso che da una parte ci sia lo spirito dei giovani di fare le cose, così dall'altra parte manca tutto quello che potrebbe essere il percorso di capire come includere gli altri, come avere delle tempistiche, come darsi... E diciamo che in questo senso... hanno ancora da crescere, però l'impostazione è giusta. Il problema appunto è avere adesso secondo me generazioni ulteriori dopo della società che sappiano mettersi in gioco con loro, che sappiano ritrovarsi, fare degli incontri. Oggi riusciamo a fare degli incontri online che consumano fino a un decimo rispetto a prendere la macchina e 2000 emissioni. C'è bisogno di unità, insomma, quando si parla di queste cose bisogna cercare tutti quanti di parlare con una sola voce, sì, perché altrimenti dagli ambientalisti evitiamo, diciamo, quello che viene nella politica dove si dividono sempre. Raffaele, l'ultima cosa al volo che ti chiedo in merito appunto al DDL Zan di cui tanto si sta parlando, tu cosa rispondi a chi dici non c'è bisogno di un'ulteriore legge, c'è già la legge Mancino che tutela chi viene comunque colpito per il proprio credo, per le proprie differenze, e quindi, come posso dire, questo creerebbe secondo alcuni un'ulteriore ghettizzazione. Ma guarda, io sai benissimo che il valore alle cose le do per quello che sono, quindi se uno fa un reato viene punito, lo vedo, se fa un reato non viene punito, va in giro liberamente della mia città, francamente, cioè, mi sento veramente abbandonato, ed è quello che sento la maggioranza, perché alla fine se non riesce a garantire dei diritti da una parte, non riesce a garantire i diritti dall'altra parte, i soldi li spendi come vuoi, non si fa una prevenzione per evitare magari a ottobre di essere ancora qua in zona rossa o cose del genere, allora sì, sono dei problemi che non sono soltanto una parte del panorama politico, ma sono ormai diventati per di tutti. Sono comunque problemi di tutti, diciamolo francamente, non si tratta di far avere diritti solo ad un'elite di persone o peggio ancora, come cerco di dire spesso, a una lobby. Questa non è una lobby, queste sono persone, sono ragazzi e ragazze che hanno comunque, come posso dire, una vita quotidiana e che vivono la propria realtà dal proprio punto di vista, e quindi insomma ridurle ad una lobby mi sembra troppo semplicistico, devo dire francamente fuori luogo. Grazie Raffaele. Grazie Giuseppe. E allora buon divertimento, sarà anche una lunga voi. Festa e noi saremo qui ovviamente a un intervento? Fate un saluto? Fate un saluto come Agedo? Ricordiamo che lo spazio davanti al palco centrale deve essere libero per le esibizioni. Ciao! Abbiamo detto, ma troveremo qualcuno che conosciamo? Fagiano, ovviamente. Cosa fai con quella roba lì? Sono in diretta radio, sulla radio Arci. Stai ridacchiando in diretta alla radio. Adesso mi sto voi sì, prima facevo il serioso. Sono in pensione. Alleluia. Bene, bene, bene. Noi riusciamo a fare la diretta. Iscrizioni ci sono? Hai idea come è il programma? No, infatti gliel'ho chiesto prima, che gli avevo mandato un messaggio ma non mi ha risposto, è il figlio del Matteo dentro. Dominioni. Carletto. Sto intervistando. No, no. sono proprio... Ma quando mi rispondono la pensione, mi sa che io non riuscirò mai neanche a pagare i contributi che mi fanno. Stai pagando le nostre pensioni. Io non lavoro. Ancora una lotta per l'ombrologia. Nel 93 era raccontato quello che era malato di sì, perché alla fine si fa l'analisi perché sei male qua, si fa l'analisi perché sei male qua, si fa l'analisi perché sei male qua, si fa il massimo. Un applauso per Miss Andrea! Anche a Bologna un paio di giorni nel pranzo. Vedere una mostra di Andrea Pazienza. E poi c'era una mostra. Fino a quando c'è. Perché non ha detto l'anno. Non è vero, non siamo ancora. Non è vero. E un'altra. Tu sei piscolino. Non te lo ricordi il male. Benvenuti al primo Pride in questa città dopo 22 anni! Siete pronti? Carichi? Proci? Benvenuti al Como Pride, siamo contentissimi che siete così tanti. Noi oggi vorremmo farvi divertire, ci saranno musica, interventi e performance. Ci avremo compagnia per qualche ora. Intanto devo ricordarvi, purtroppo siamo ancora nel mezzo di una pandemia, di tenere la mascherina, cercare di stare più distanziati possibile e di non stare troppo attaccati assieme. Vi spiego un po' com'è organizzata la piazza. Se voi guardate il tempio potete vedere la musica, gli interventi, le performance. Qui abbiamo la camminetta di Parti con noi, non vi dirò altro perché se siete interessati a sapere quello che fanno sarete costretti ad andare ad altre date. Qui alla vostra destra abbiamo il mini market e l'area bimbi, se avete con voi i bambini l'area free market. Se avete con voi i bambini potete portare l'area bimbi fatte struttura, mentre il market, se avete dei vestiti, se avete portati con voi e non usate il campo, dovete lasciarli e poi potete prendere qualcosa per voi da portare via a casa. Allora, il mio nome è Miss Andrea, io sarò una delle vostre presentatrici oggi, ma ne manca una. Oggi non sono sola, solo che dovete capire, la mia collega è un po' egocentrica, no? Quindi vuole farsi desiderare e leggenda narra che se la si chiama tre volte apparirà. Il suo nome è Miss Gender, quindi dovete aiutarmi un attimo perché c'è anche dei problemi di udito. Allora, dobbiamo chiamarla tre volte. Uno, due, tre, Miss Gender! Miss Gender! Miss Gender! Thank you. Come Como Pride, inoltre, ci schieriamo a favore del DDL Zan, riconoscendo che sia un primo passo necessario ma assolutamente non sufficiente. Crediamo che serva un percorso di inclusione sociale basato sulla cultura, partendo dalla scuola e dall'istruzione. Quindi adesso, ragazzi, mi raccomando, godetevi questo Pride e godetevi la vostra vita, siete tutti bellissimi! Siamo nuovamente collegati da Como Lago e alla Pride, che ormai è a buon punto, dovrebbe terminare verso le 19. Mi scuso, ripartiamo. Come ti chiami? Beatrice. Jessica. Nicole. Chiara. Chiara. Vabbè, sì, perché stavamo già parlando e quindi ha perso un po' la voce. Dicevamo, qual è l'ultimo Pride a cui siete stati? Quello di Milano di settimana scorsa. E a parte il caldo, il significato del Pride? Oh, abbiamo qua, vuoi andare in diretta, vuole dire due parole il nostro dei 5 Stelle alle Otia, al comune di Como? Doveva partecipare anche il sindaco. Doveva partecipare anche il sindaco. Avrebbe dovuto. No, avrebbe dovuto, sì. Ma sì, non sì. C'è. Ma non c'è. Ma non c'è. Gli assenti hanno sempre torto. Purtroppo, sì. No, è importante questa giornata dopo 22 anni che ritorni a Como, anche dopo le parole sconsiderate di quel consigliere di Milano che ha detto che sono tutta gente disadattata e con problemi che si ritrova. Bisogna sempre far presente che ci sono persone che lo vivono come un problema, perché la gente glielo fa vivere come un problema, e quel ragazzino di Torino di pochi giorni fa è sicuramente un'immagine che deve far pensare a tutti e far riflettere che questa società ha bisogno di regole e di leggi, perché non è ancora matura per affrontare qualsiasi problema e nemmeno nell'accettare le diversità delle altre persone. Mentre su Como state già lavorando su qualcosa di particolare, questa sensibilità nuova che richiedono i giovani, pensate di fare degli incontri e portarli avanti in ambito locale? Ah, io spero di riuscire sempre di più a coinvolgere i giovani. I giovani sono il futuro e sono quelli che si vede oggi nella presenza numerosa, sono quasi tutti giovani, che simboleggiano proprio il fatto che loro sono convinti che si possa cambiare, che la società possa avere un futuro, quindi loro, il loro ruolo è fondamentale, spero che ne vogliano, noi siamo disponibili ad ascoltarli ed aiutarli per portare avanti le loro idee. A proposito appunto del futuro dei giovani e di quello che sono le campagne in atto, sia vostre che comunque della società civile, come stanno andando adesso i referendum? Vai, referendum, io ho dato la mia disponibilità per l'autenticazione delle firme, a prescindere da quello che uno pensi, il referendum è la massima espressione di democrazia. Ci vuole, i temi sono fondamentali, sia quello sulla caccia, ma soprattutto quello sull'eutanasia legale. Abbiamo visto situazioni che sono paradossali, il fine vita, una fine vita dignitoso per le persone, io reputo che debba essere sicuramente tutelato e debba essere normato per permettere alle persone di poter scegliere in libertà. Ovviamente non stiamo parlando di un omicidio, ma stiamo parlando di una scelta volontaria di chi sa, e i medici prima di loro lo sanno, che queste persone non hanno possibilità di ripresa, e quindi è un puro accanimento terapeutico che è una tortura e non un aiuto per le persone che lo subiscono. Bravo, invece sotto l'aspetto della sanità, quali sono in questo momento le carenze che dobbiamo affrontare subito prima di incorrere ancora in questa pandemia che alla fine va e viene perché non si vuole estinguere fino in fondo? Allora, io qua non mi piace farlo, ma mutuerei una frase della Lega storica: scendiamo a Roma con i forconi. Qua scendiamo in Lombardia con i forconi, perché la Lombardia ha dimostrato che la sanità è stata privatizzata. La Lombardia ha sempre detto che la sanità era il fiore all'occhiello di questa regione, invece ha dimostrato che il voler privatizzare, il voler dare in mano ai privati, ci ha messo di fronte, in una situazione come la pandemia dovuta al coronavirus, alle drastiche carenze che questa privatizzazione ha portato. Le strutture pubbliche sono andate al collasso e quello è stato il vero problema del Covid. Il fatto che le strutture non fossero attrezzate, le terapie intensive erano sottodimensionate e il personale non era preparato. Personale pubblico, la sanità pubblica devono essere la base della nostra società. Noi, diversamente ad altri paesi come la vicina Svizzera, abbiamo scelto di dare una sanità pubblica che sia aperta a tutti e che sia accessibile a tutti. Deve essere garantita a un livello però sufficiente quantomeno a garantire anche di affrontare queste situazioni che possono avvenire e sono avvenute. Grazie. Grazie a te, buon lavoro, buona e buona festa, ora. Buon Pride. Qualche riflessione. È importante partecipare anche se non si fa parte della comunità, perché non si può sempre pensare al proprio orticello. Noi non siamo da soli, non viviamo da soli, e non è possibile che nel 2021 le persone non abbiano gli stessi diritti, e non è possibile che nel 2021 una coppia di persone non possa passeggiare liberamente per strada, perché sennò rischia di essere picchiato, addirittura ammazzata. E queste cose non me le sto inventando, perché purtroppo succedono, però non ci fermerete mai, cioè noi non ci fermeremo mai, quindi fatevene una ragione, perché noi siamo qua, noi esistiamo e continueremo a lottare per avere i nostri diritti. Oggi ho dato una collata in più alla mia... Thank you. Settembre l'anno c'ha le ferie, andiamo via 15 giorni. Giù a Salerno da Ravinda, dal fratello. E da giù Olivi, da una bella casa. Fracida, sei andata nel lago. Vabbè, stacchiamo un attimo che adesso sta sempre la musica, ragazzi stanno ballando, al massimo riprendiamo se ci sono ancora delle riprese. Siete un attimo prima di... Ho fatto qualche piccolo video su Instagram. Campione. Che è la cosa, sei la cosa. pittura, la scuola ti insegna a vivere, ma per piacere. L'unica cosa che mi ha insegnato è che al mondo per me non c'è posto, che la storia non la fa in corso, che la letteratura non la fa in corso, che l'arte non la fa in corso. No, questo non è vero, qualcuno sì, quindi mi vogliono loro però. Mi hanno occupato di niente dall'anno di ragazzini, questo lo posso dire. Tanto alla fine almeno quello che si meritavano, ti hanno tastarguato per omosessuale, ti hanno sbattuto in prigione. Si può parlare di omosessualità, di chi si castigo, di chi c'è un prezzo da pagare. Non c'era i carri di Catullo per Nebbia, ma non per il Pertonezio. Non c'era i Catullo per Degnenis, ma non per il Permarato. Leggeranno tutto Shakespeare e certi componimenti per il bel giovane. Non parleranno di Virginia Woolf e Rita Sacchi West e del loro amore che ha ispirato Orlando. No, i libri di scuola ti hanno prestato una grande amicizia. Perché la bisessualità esisteva solo nell'antica Grecia, no? E anche lì meglio parlarne poco, pochissimo, semmai che i ragazzini si facciano idee strane. Perché è questo che mi ha insegnato la scuola, che al mondo c'è posto per un solo tipo di amore. La scuola ti dice, leggili pure i Froci se ti va, ma non lo faremo qui. Perché la scuola ti dice che è meglio essere etero, che se non lo sei allora è meglio che te ne stai al tuo posto. Vorrei vederla bruciare con essa tutti i bigotti, i preti che predicano la divisione anziché l'amore, i politici che giocano con i diritti delle persone, tutti quelli che potrebbero cambiare le cose e non lo fanno, tutti quelli che di fronte all'ingiustizia stanno in silenzio, tutti quelli che fanno del male solo perché possono farlo. Io vorrei poter immaginare un futuro per me. Vorrei essere felice, ma la verità è che se penso al mio futuro non vedo più il vuoto, il nero, l'abisso. Non riesco a immaginarmi a 20 anni, a 30, a 40. Non ho progetti, non ho sogni, non ho ambizioni, ho solo un bivio davanti. Vivere una vita di menzogna o espormi al giudizio degli altri. Vorrei essere abbastanza coraggioso per scegliere la seconda, ma io non sono coraggioso. Io sono solo un ragazzino di 15 anni che vorrebbe poter ricominciare a respirare, invece mi sembra di soffocare sempre di più. Ma chiedo tanto? Io voglio passeggiare sul lungolago con Leo tenendolo per mano. Voglio presentarlo ai miei genitori. Vorrei presentarlo ai miei amici. Vorrei andare in vacanza con lui, al mare, in montagna, dappertutto. Voglio fare una foto con lui e postarla sui social se mi va. Voglio gli appuntamenti, le uscite, andare al cinema, andare al ristorante, prendersi una serata così per un tour e dire a tutti che lo amo. Vorrei poter fare tutto questo senza gli occhiatacci della gente, i bisbigli sottovoce, gli sguardi schifati, il disprezzo, il rancore. Ma con che diritto mi credete migliori di me? Vorrei poter guardare il telegiornale e non vedere il guardare il telegiornale e dover sentire uno stronzo divorziata che mi dice cos'è, cosa non è una famiglia. Vorrei aprire un social network, un social network senza vedere ogni giorno parole di scherno, di disprezzo e di violenza. Vorrei che il pubblico non ridesse quando un comico dice la persona etero farà tutto ciò che è a mio potere per evitare che mio figlio sia gay. Vorrei che un comico del pazzo che non fa neanche ridere non avesse il potere di farmi male. Eppure fa male. Quando staranno zitte tutte queste voci nella mia testa? Senta signora, mi scusi se mi permetto, ma vorrei parlare di suo figlio. All'intervallo gioca sempre con le femmine. Lo dico per lei, suo figlio lo dica come vuole, però potrei considerare uno psicologo infantile veramente bravo. Era la mia maestra d'asilo, stravedevo per lei. Pensavo che non avessi sentito, ma ho sentito il cuore. Forse me lo sarei dimenticato, ma mio nonno si è assicurato che non me lo dimenticassi, perché tanto erano tutti i coglioni che alla fine mi ci hanno mandato dallo psicologo. Non avevo capito allora, ma adesso sì. Giovanni, ci sono certe cose di cui non sta bene parlare, non sono cose che riguardano la gente per bene, quindi puoi stare tranquillo. La maestra delle elementari, un mio compagno mi aveva chiamato gay e le ho chiesto cosa volesse dire. Smettila di giocare con queste bambole, mio padre, poi un tonfo e la bambola di porcellana in mille pezzi sul pavimento. Stavo solo giocando. E mamma, tu perché non hai fatto niente? Di solito sono le frocce perché ho un problema in famiglia e quando lasci con essere donne quindi ti comporti da checca. Secondo me dovrebbero rinchiudere degli istituti, gli amici di mio fratello. Vedi di toglierti quello schifo prima che ti veda tuo padre. Mio fratello, quando mi sono macchiato di quel crimine che è mettersi un po' di mascara. Vorrei che potesse vedere il male che mi avete fatto, vorrei che soffriste quanto mi avete fatto soffrire. O forse no, forse vorrei soltanto che mi chiedeste scusa. Ma non sapete neanche quello che avete fatto, non sapete neanche che c'è qualcosa di cui scusarsi. Ed è proprio questo il problema. Allora, vi dico soltanto un minutino, poi la per tornare al vostro Pride. Allora, questo libro è passato nel vuoto, è un libro che io ho iniziato a scrivere quando avevo 19 anni e adesso due anni dopo sta uscendo e sono molto contento di questo. Antonio Dell'Ampi, siamo in diretta su Radio Arcinovirus. Abbiamo più a stretto almeno i piedi. Ma vedi anche all'ombra un attimo. Sei bene? Allora, come mai da queste parti? Sono qui perché abbiamo aderito alla manifestazione di oggi che ci è stato chiesto dall'Unione degli Studenti e sono qui a rappresentare l'Ampi. Anche se una presenza isolata, ma c'è. Hai visto il numero dei giovani presenti, cosa ne pensi? Penso che sia una bella cosa perché sono tantissimi e sono tutti giovani, studenti, e questo può garantirci qualcosa di un po' meglio rispetto al passato, ci garantisce sul futuro. Con la speranza che non si perdano per strada, come succede molte volte. Ma questo perdersi per strada perché? Il perdersi per strada dipende da tante cose, dipende dai cambiamenti di vita, dipende da interessi diversi che vengono ad assumere le nostre giornate, dipende dal fatto che in una situazione come la nostra i giovani possono impegnarsi e far politica finché non hanno impegni di lavoro, perché con la situazione attuale impegni di lavoro precari impediscono poi qualsiasi altra attività perché non gli è concesso avere idee o quantomeno avere la possibilità di esserci, di partecipare e di fare. Quindi questo qualche problema sul nostro sistema, sulla nostra democrazia c'è in questo momento, lo vediamo, lo sentiamo. Certo che qualche problema c'è, a tutti i livelli. Certamente noi come Ampi insistiamo molto che venga applicata la Costituzione, perché quella sarebbe la maniera per risolvere tutti i problemi, è di democrazia, è di libertà, è di, come dire, di potersi impegnare sulle cose in cui si crede veramente, perché oggi con questo sistema non ci è consentito, perlomeno non ci è consentito a tutti, i giovani sono ulteriormente preclusi da questo punto di vista. Eh sì, nei mesi scorsi, a gennaio doveva partire una commissione per i diritti dell'uomo in Italia, che viene richiesta ormai da 20 anni questa commissione, e finalmente sembrava dovesse partire, invece non è partita. A marzo il problema con le class action, che dovevano partire le class action, non abbiamo ancora i registri, non abbiamo ancora una piattaforma integrale dove appunto questi simboli, diciamo, di democrazia che dovremmo già avere non li abbiamo ancora. Come si può intervenire se la politica non fa il suo dovere in questo momento, non è più libera di concepire una sicurezza, una sanità, un affrontare delle problematiche dove praticamente anche la Lombardia ormai si trova all'interno di speculazioni, di maneggi vari che non si riesce a fermare al momento opportuno, perché qui andavano fermati al momento opportuno per evitare ulteriori problemi per la sanità e per chi si trova negli ospedali ad affrontare questo problema di sicurezza alla fine. Se la politica non ci arriva, perché ormai è marcia dentro, per portare avanti la democrazia nella quale crediamo tutti, gli strumenti quali possono essere? Allora, perché noi a questo punto dobbiamo cercare gli strumenti che siano anche all'esterno, che possano darci forza a livello nazionale, perché come ci sono delle risoluzioni dell'ONU su diesel, su la carne rossa, su, insomma, tante cose per le quali creano dei danni economici notevoli nel, in tutti i paesi, e poi appunto come la pandemia viene trattata nella stessa maniera, e quindi non si estirpa il primo giorno il problema, ma si fa passare come una stupidata, e quindi le stesse persone che dicevano che era una stupidata poi ce li ritroviamo ancora dopo un anno e mezzo a capo dei tavoli della regione piuttosto che comunque in Parlamento. Mi sembra che non andiamo un granché avanti se a ottobre avremo ancora l'ennesimo problema. Io ho detto prima l'applicazione della Costituzione. La Costituzione sappiamo che particolarmente all'articolo 3 stabilisce dei criteri molto precisi, che sono lo Stato deve farsi carico di eliminare tutti i problemi perché i cittadini hanno parità di diritti, di dignità al di là delle loro credenze. Allora, diciamo che questo è una parte del discorso. Poi c'è l'altra parte, che è quella che i partiti purtroppo hanno abdicato ai loro doveri da tempo ormai, creando situazioni di partito in cui il parlamentare non conta più niente. Il parlamentare che viene nominato non ha più neanche contatto con il territorio, perché tanto non gli interessa avere contatto con il territorio, ma gli interessa tenere il posto, perché questa è la realtà. Allora, questo problema si può affrontare. Oltretutto, non ricordiamoci che quando hanno cambiato il titolo quinto della Costituzione hanno generato proprio quei problemi di cui parlavi tu per quanto riguarda la sanità, decentrandola, mandandola alle regioni, ognuno l'ha gestito a suo modo. La Lombardia, abbiamo visto quello che ha fatto, e non è ancora finita, perché non è un problema solamente di Covid e di ospedali. Oggi, per riuscire a essere curati, bisogna rivolgersi necessariamente al privato, e chi può lo fa, chi non può è costretto a subire purtroppo anche con gravi conseguenze, perché questo è il tipo di sanità che è stata creata nella nostra regione, che è la Lombardia. Chiaramente questi problemi vanno affrontati in modo diverso. Adesso c'è stato un referendum pochi mesi fa che ha sancito la diminuzione del numero dei parlamentari, senza però che questa nuova forma di parlamentari venga gestita con dei regolamenti diversi, con una nuova legge elettorale che faccia sì che il parlamentare risponda al territorio e non al padrone del partito di turno, per cui questa cosa qui, io poi non so cosa riusciremo a fare in una società capitalista, perché questa poi è la sintesi, è il fatto che siamo in una società capitalistica e che va avanti e sempre profitto. È difficile, però qualche cosa bisogna fare. Certo, noi come ANPI stiamo proponendo delle iniziative proprio in questo periodo, che sono iniziative per mettere assieme il maggior numero dell'associazionismo antifascista, sindacati e partiti, per affrontare i problemi del cittadino sia sulla sanità, sia sul lavoro, ma anche sul vivere quotidiano. Su questo stiamo costruendo delle alleanze, speriamo di riuscire a coinvolgere tutte le persone, tutte le associazioni che intendiamo coinvolgere, e vedere di partire con questo tipo di lavoro. Non è facile, perché non è facile. Rendiamoci conto che, come dicevo prima, una società come la nostra, sempre di più egoista, sempre di più portata all'ego, non è facile, però tentiamo, sono cose che possiamo fare e tentiamo di farle. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ma la mancanza di una struttura che possa coordinare tutti questi gruppi che alla spicciolata vanno in giro, sia per i referendum piuttosto che per i singoli, per i propri diritti, ci deve essere, no? Sì, ho capito. Diciamo che in queste cose qui bisognerebbe, come dicevo prima, che i partiti politici riprendessero il loro ruolo. Perché la democrazia si regge sui partiti politici. Se i partiti non hanno voglia o intenzione o non si sentono di fare questa cosa, la strada è più difficile. Lo stiamo tentando noi, come dicevo. Certo, noi non siamo un partito politico e non vogliamo neanche diventare un partito politico, ma nel nostro piccolo stiamo cercando di costruire qualcosa. Poi cosa riusciremo a costruire è tutto da vedere, però torno a ripetere, i partiti politici, anche per la concezione che ho io dei partiti politici, devono darsi una mossa, devono darsi da fare, devono cercare di andare a tutelare gli interessi delle persone e non delle banche e non dell'economia e non, cioè, le persone sono importanti. Se i partiti politici questo non lo fanno, è chiaro che andiamo verso il baratro, perché poi alla fine è questo. Va bene, va bene, grazie Antonio. Prego, ma ci mancherebbe. Tu stai bene? E poi cosa è successo? Cos'è oggi il mese del Pride? Un mese di lotta, vorrei dire, un mese di ricordo di quella che era la lotta che mi curiava in quei giorni. Sarei però illusa. Abbiamo visto tutti la lotta che è rimasta nelle nostre vite il mese passato. Decine di centinaia di edifici, stazioni, negozi, aziende e tutti i neanche di mezza, tinti della nostra bandiera. Per solidarietà, dicono, ma sono stronzate. Il Rainbow Washing, così si chiama, è una delle più grandi dimostrazioni di quanto la nostra società sia basata sull'apparenza con il fine del profitto, di come non importa che veniamo ridicolizzati, picchiati, uccisi, l'importante è che continuano ad essere un gadget di protezione limitata che sceglie una filiera bancaria piuttosto che un'altra. Dove sono oggi? Dove sono le aziende quando il 13% delle persone omosessuali in Italia viene respinta quando cerca di lavorare? Dove sono quando questa percentuale ammonta al 45% per le persone transgender? Dove sono quando centinaia di donne trans sono costrette a prostituirsi per pagarsi un pasto arrangiato alla mensa dei poveri perché vengono cacciate di casa? Come Pride ci schieriamo contro ogni forma di capitalismo arcobaleno e contro ogni tentativo di profittare sulle nostre vite. Noi non siamo sei colori toccati su una maglietta, noi siamo persone, abbiamo bisogno di essere supportate e di essere seguite come tali. Grazie mille. Questo poi fanno di quelle scelte incredibili, non solo tu, ma l'anziano che va a fare una visita e che non ha la carta di credito e paga in contanti, questi soldi non li recuperano. Va bene, perché non c'è tracciabilità. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom meno male che posso uscire ancora di casa e andare ai giardinetti. Ai giardinetti tiro su tutte le, sono i giardini più puliti che ci sono a Como, infatti, dove... e quando sto meglio riesco a fare anche il quartiere. Chi è che era questo qua? Il consigliere regionale del PD, assoluto. Ah, guarda, dopo l'inculata, guarda, la pandemia mi hanno inculato tutti, compreso lui. Certo. Quelle delle cittadine che detto che sono nelle cittadine che sbagliate che non va bene, che verranno sequestrate, catturate, quindi guarda, lo stato di cuore, ascolta, ascolta, ho letto ieri sulla provincia che una delle parole riconosciuto, sta ancora bene. Sì. Sì. Volevo chiederti, tu sei dentro al referendum per la tassazione dei patrimoni, quello che è partito, quando è che c'era la serata? Quello della tassazione dei patrimoni. Del sì. Tu sai qualcosa? Perché volevo qualcuno che mi parlasse del referendum, che facevano anche un incontro a Como. Ho intervistato. Ma il referendum indetto c'è stata la raccolta firme. Quindi hanno già raggiunto il numero di firme. No, non credo, penso che sia un referendum che fa senza adesso, perché io adesso non sono riuscito a seguirne uno, adesso che li sto seguendo, sto cercando di capire a che punto sono, appunto sono che lui non è che questo sia tutto. Thank you. Thank you. sono stata molto stata per l'ultima volta. Sai che c'ho? Che altro? Hai un cagnolino dietro? Hai un gocciolo? Posso accarezzarlo? Non so di chi è. È nostro. Begli occhiali. Grazie. senti la voce? Sì, quello di prima. Bravo. La gente omofoba è malata e la gente non si cura con la galera, con qualche mese in più. L'omofobia si cura con l'educazione, con l'istruzione e con la rieducazione. Ed è per questo che bisogna puntare tantissimo sulle scuole. Una delle associazioni che ha aderito a questa manifestazione era appunto l'Unione degli Studenti di Como. E appunto a parlare di scuole, di cosa si può fare a scuola, ho qua Davide, buonanotte da paura, che appunto parlerà di scuola. Scusate. Allora io oggi sono qui a parlare in nome dell'organizzatore, di membro dell'Unione degli Studenti e di quanto persona che non si rispecchia nell'educazione, nel sistema scolastico eteronormativo e binario. E vorrei partire dalla mia esperienza. Io ho fatto coming out a 16 anni, non sono mai stato insultato, non sono mai stato picchiato, non sono mai stato insultato, bullizzato. E quindi teoricamente non ci dovrebbe essere un problema, perché il DDL Zan copre solamente questo. Eppure io, se ripenso al mio passato, vedo un bambino triste, un bambino che non si sentiva. Una comunità eteronormativa e binaria. Infatti, concentrandoci sul primo punto, il fatto di essere eteronormativa, fin da bambini a tutti vengono sempre dette storie d'amore solamente tra maschio e femmina. E quando magari da quelle storie ci sono rappresentazioni o sottoscena che riguardano l'omosessualità, prendono le scommesse, per esempio Patrick e Achille ovviamente erano migliori amici. Oppure pensare alla sirenetta di Andersen, che è un nullo all'omosessualità repressa e invece viene presentato come un semplice cartone. E queste sono solo le piccole cose, soprattutto però bisogna parlare dell'educazione sessuale, che o non viene fatta o viene fatta per persone etero e binarie. Le persone affrontano enorme difficoltà nel vivere, affrontano tantissime difficoltà e manca l'educazione per la sicurezza, magari non dover affrontare determinati problemi, avere magari problemi nel frattempo. E invece dall'altra parte c'è la questione della scuola binaria, una scuola che divide sempre maschio e femmina, rosa dal blu, che divide sempre lo scuola. È passato il messaggio o no? Che cosa diciamo alla scuola binaria? Vaffanculo! Cosa diciamo alla scuola binaria? Stai divertendo? Sì, cos'è? È la radio. Ah. Siamo in diretta radio. Ah. Ho aperto una radio web. Wow. Dove è il mio compagno? Ah, piacere, Daiane. Raffaele. Raffaele è molto rigido, guarda quell'effettivo, cioè io che senza di te. Io non c'ho addosso per niente, non mi frega un cazzo. Se lo prendo. Porco Dio, almeno fate celebrarsi dove si capisce. Ale! Buon pomeriggio e buon Pride a tutti. Sono Monica Rutta, attivista intersex del gruppo Giovani di Intersezioni e membro dei Giovani Comunisti di Milano. È da troppi mesi che stiamo aspettando l'approvazione del DDL ZAN, legge così importante ma allo stesso tempo basilare, che qualsiasi paese di sentire civile dovrebbe avere. Questa legge punitiva non è il punto di arrivo come molte persone credono, bensì solo il punto di partenza verso una società più equa. Infatti il DDL ZAN non tutela tutta la community LGBTQIA+, in particolare non tutela le persone intersex e per l'ennesima volta ci troviamo invisibilizzate. Noi persone intersex abbiamo delle variazioni naturali nelle caratteristiche di sesso, per cui abbiamo dei corpi che non rientrano nelle tipiche nozioni binarie, dei corpi considerati di sesso femminile o maschile. Noi intersex siamo costantemente invisibilizzate e trattate non come persone, ma come disturbi dello sviluppo sessuale. Per ragioni prettamente culturali ed estetiche, durante l'infanzia veniamo sottoposte, senza il nostro consenso informato, a mutilazioni, ovvero operazioni chirurgiche non vitali che modificano in maniera irreversibile i nostri genitali sani. Subiamo asportazioni di gonadi e terapie ormonali non vitali, sempre senza il nostro consenso informato. Non abbiamo nessuna tutela contro questi trattamenti inumani e abbiamo difficoltà a trovare personale medico adeguatamente informato sulle nostre variazioni e le nostre esigenze. Tutte queste violenze ci portano ad avere una bassa qualità di vita e gravi ripercussioni sulla nostra salute psicofisica, sulla nostra vita sociale, scolastica e lavorativa. Eppure raramente le persone parlano di noi e le poche volte che viene fatto è in maniera patologizzante e vengono riportate informazioni incomplete, se non addirittura erronee. L'Italia è stata sanzionata già 2 volte dalle Nazioni Unite per le IGM, Intersex Genital Mutilations, che effettua sulle bambine e bambini intersex con genitali atipici. Eppure noi sex siamo continuamente invisibilizzate, anche nel DDL ZAN. Noi persone intersex siamo estremamente stanche di tutto questo, ma non stanche di lottare. Non vogliamo impietosire nessuno, vogliamo semplicemente che i nostri diritti umani vengano rispettati. Fino a quando anche i nostri corpi intersex non saranno riconosciuti, rispettati e tutelati adeguatamente da questa visione estremamente binaria e da questo clima di odio, non ci sarà alcuna liberazione delle persone queer. Non esiste Pride, non esiste lotta queer senza intersezionalità e senza l'inclusione delle altre intersex. La lista per intersex non invisibili. Grazie mille Mary, un altro applauso! E con questo ragazzi apriamo chi qualsiasi associazione che volesse dire la sua riguardo questioni queer è aperto, venite qua al Tempio Volpiano, vi segniamo e potete parlare. Intanto un po' di musica! Sempre in diretta dal Tempio Volpiano. Prosegue la giornata, i ragazzi hanno sempre voglia di ballare. A dopo. Si sente? No, no, ah sì, aspetta. Ok. Guarda, ho fatto bene. Non ho fatto bene. Oh, buona che ce l'ha. Va bene, siamo in diretta su Radio ACI, volete dire la vostra, Enzo? Non so. Guarda, commenti all'ultimo. Commenti all'ultimo. All'ultimo perché infatti. Aspettate un secondo. Un centro di 22 anni fa, non non c'è questo passaggio inter che ho sempre auspicato generazionale, veramente non è che il passaggio intergenerazionale Piazza Roma. Attenzione, seguiamo dalla diretta, stanno arrivando due pulotti che probabilmente stanno vedendo che sono le 7.00 e come sempre, come succede? Come succede a Como? Te lo sai come succede quando arrivano i pulotti a Como durante la... Spengono le musiche e la gente si dirada. Questa è l'estate. Maschera. Grazie ragazzi. Dai. Ricordo tutte e due. Sono venuta a Milano. Ti arriva dell'acqua, può essere. Ah, ecco. Ci vediamo. Non vuoi venire su una cena? Non vuoi venire su una cena? O un pranzo, perché ormai abbiamo tutti una certa età. Ah no, sono una volta. Oh, mamma, no, ti capisco. Siamo saltati a cambiare. Non so che è una bicicletta nuova elettrica. No, una bicicletta già. Scusate, annuncio veloce. Una ragazza da Marina Davide. Potrebbe essere interessante. Quindi se c'è questa ragazza qua, si rivolga alla polizia locale che ha i suoi documenti. Ripeto, cambia la linea, se perdi i tuoi documenti, ma la polizia locale che ha i documenti. Ok. Di fianco alle scale del tempio. Guarda la buona fede. Va bene. Cattiva, sì. Pazzi fai. Alla prossima, comunque verrò una volta. Dai. Magari dopo l'estate, perché adesso devo dire. Poi andate lì, l'esame. Noi a settembre, dall'1 al 15, se non succedono casini che bloccano l'anno al lavoro, andiamo in vacanza giù. Sì. Salutare l'Albert, salutare la Linda. Facciamo il riso, non sapendo storie di certificati, quando durano, quando partono, devo magari risparmiare una cosa, finire dentro quel giro assurdo, mezzo privatistico, eh? Sì, sì. Continua diretta dal Pride. Thank you. Gli hanno rotto le scatole. È un altro mio amico adesso è approdato lì. Infatti gli ho detto vai a sentire come sta Daniele Spagnolatti, se c'è spazio da lui, perché essere più indipendenti è meglio secondo me. Adesso infatti non so il mercato di Como quello che offre, se la gente riesce a trovare gente con cui andare ad abitare. Vai. Ciao. Due. Ciao Raffaele, buona, grazie. Bella, anche la Patti me lo dice, la Patti e il Mario quando mi incontrano. Mi dicono sempre così. Ciao. Va bene, ma... la mia adolescente. Gli ho detto vieni verso destra che andiamo. È integrale, la vedi? Vedo il cappello, tanto. Sentire. Da tutto il giorno. Cioè, quindi adesso si sente la difesa. Experiment. Noi facciamo experiment. Vedo come è experiment. Ma che qua facciamo? Sono tornati i vecchi sistemi qua. Si ricorda quanti c'erano che i lacchi facevano il passo? Oh mamma mia, tantissima, addolorata. Cesare non si vede più, eh? Cristian non si vede più. Cesare. Non ti pubblicherò grasso. Il tetto ogni tanto è tetta. Immensa al lavoro. E non lo so, si vede che viene a fare qualche lavoro in zona dove lavoro io. Quindi una volta ogni 2 anni me l'ho ben connessa. E il Peppe. Il Peppe è il tuo, aspetta. Non so se te lo ricordi, un signore, era un piatto cliente del bar. Però che è morto? No, ancora, l'ho portato l'altro giorno lì per lavoro alle siringhe con mamma. Quindi una sera, lo vedi, lo sai. Bene. Vabbè, l'importante è che stiamo bene, te stai bene? Io se vado in giro così, però non posso andare in giro. Che senso? Sovraccarico di roba. Oggi ho registrato una canzone che parla di amore, ovviamente al quale per detto che per fortuna non la puoi ipotizzare, però sono gli altri che non posso usare il corpo. Chi sono io? Non so chi sei! Ma perché? Qual è il problema? Le gambe. Le gambe? Poi praticamente sono attratto alla fibromialgia. Ok. Non è ancora una cosa riconosciuta in termini 100% perché i medici non sanno una serie di cose. La mia migliore amica la fibromialgia. E quindi quando sono stato certificato di fibromialgia. Tu come hai fatto ad arrivare alla terapia poi? La mia collega ha tentato tramite Milano. Sono passato per nel corridoio del Sant'Anna, sentito. No, mi ha dato la canna però perché aveva fatto favore a un altro, una carezza. Scusa, che cazzo si sa che vieni qua a pistola. Hai capito? Scusa tutte le informazioni che hai. Scusa tutte le informazioni che hai. E quindi sono riuscito a farmi dare loro che la canna la danno a livello fortissimo rispetto a tutte le stanze di cuore pesanti che vengono date per l'uso della terapia del dolore. E quindi ho capito questa storia. Poi, insomma, non so, per fare l'esperimento cioè dovrei andare ad esempio dove certe leggi le rispettano. Qua durante la pandemia per 8 mesi o un anno quanto è, proprio non c'era, perché questa arriva dall'Olanda perché c'è il 10% di THC e quindi. Tutto il terreno con la clima che abbiamo che sarebbe ideale, guarda, ci potrebbe essere usato anche solo per quello. Il mio padre faceva delle piante qua. Che erano anche su qua. Allora, siamo comunque questa è la storia. Che uno sta male. Come va te? Bene, bene, si lavora, si produce, si fattura. Oh, oddio. da bambina me la suonava col pianoforte. Belli della zia. Fai la calappa sola della situazione. Già la calappa sola. Vai, vai. Mastri, muovi. Bisogna fare effetto finale. Non lo sei detto del neanche sentito, ho dovuto tirare dentro nel gruppo contro l'omofobia, sono grandi, erano stati grandissimi, però probabilmente ci hanno fatto subito con quelli del gay, tipo così, poi mi sono guagliati, che era una scusa di Sanino che perché sennò vabbè stanno andando abbastanza per la loro, speriamo di riuscire a trovare una convergenza con tutta questa bella gente e ricostruire questa città. Poi siamo già alle 7:20 in diretta su Radio Arcino Eros sul canale Miscellanea. Qui è il Baffa con accanto la segretaria di Noeros, Annick. Oh la miseria! Ma è stato bello, un po' di gente è stato contento di vederla perché in questo stato non vedo più un cazzo di nessuno tranne i vecchi di quartiere con cui quando siamo in mare batto anche il 5. Incredibile. Sono proprio carini. Sono carini. Cosa dati? Figlia, sono al lato del tempio, vieni verso il lago, verso destra, tu. Cammina, vai a destra e vai sempre dritto che li vedi sul pratone. Sono il pacchetto dei vestiti. Senta, volevo leggere questo messaggio. Cammina, su, cammina verso il lago. Su un'omofobia Como della Dolores De Marco di Aceto Como. Perché esserci? Dagli anni 70 la comunità LGBT ha fatto passi avanti, ma si è anche allargata dopo un anno e mezzo convissuto con una pandemia mortale. Si ha la consapevolezza che questa ha creato ancora più diverio sociale e ha aumentato i processi di discriminazione. Si torna a lottare all'ombra della bandiera arcobaleno, che è simbolo di diritti per tutti. Gli sforzi di tutti i Pride andranno a sostenere la legge Zan con lo slogan ripartiamo dai Ciao. Salutami Anna. Quando vuoi passa veramente come ha detto là. Se vuoi portare qualche altro della brigata, va bene. Speriamo che lasciano i giardini come li hanno trovati, perché sapete che io rompo sempre il cazzo, Fagiano rompe sempre il cazzo, però bisogna dimostrare a questi fascisti di merda che noi siamo meglio di loro, cioè noi teniamo i quartieri meglio, teniamo il lago meglio, se no siamo al loro livello, quindi mi raccomando ragazzi, non farci fare brutta figura. Raga, mi raccomando, tutti che sono alla fine persone, e mi raccomando, raccogliamo tutta la spazzatura che abbiamo lasciato in giro, per rispetto di tutti comunque, facciamo vedere a questi fascisti di merda che ne sono delle brave persone, cazzo! Vabbè, qualche ragazzo che impara a pensare con la sua, con il suo cervello, cioè... Certo, non può rimanere il futuro di Como in mano a queste persone, basta, so. Vabbè, vabbè. Vieni, vieni a Radio Baffa. Vieni a Radio Baffa. Radio Baffa. Sto andando perché andiamo a cattoneggiare. La festa di... Vedo che l'albergo si sta divertendo. Contento, sì, sì, è una bella festa, vero? Sì, sì, bravi ragazzi. Inaspettata poi, guarda, sì, sì, per la città griglia che c'è, quello che ci offrono, sì, sì, finalmente i nostri amici, sveglio, compagni, vediamo un po' di... Sì, sono felice che questo passaggio intergenerazionale, che sappiano questo, ora, mantenere la loro genuinità, e che ci sia questo cazzo di passaggio. Vabbè, poi chi si perderà, chi farà, però per lo meno, cioè noi non, la città la vogliamo come la vogliamo, Filippo, multicolor è sicura, perché noi siamo per le mascherine giuste al momento giusto, non vogliamo far correre rischi. Anche la sanità di base del territorio, in modo che non si infesciano gli ospedali aspettando l'ultimo momento a andarci, ma curando sul territorio. Grazie. Grazie. C'è ancora un po' di birra. i ragazzi là stanno questo fatto qua. Non facciamo più le dirette. Silvia? No, non è intervistata la Silvia. Eh? È intervistata la Silvia. Silvia, cosa pensi di questo Pride? Penso che sia stata un'ottima occasione per sicuramente per rendere nota una realtà che è già ben visibile e radicata in questa città, ma questo evento spero prevalentemente abbia potuto aprire la mente a tante persone comasche che purtroppo hanno ancora degli stigmi che non hanno più senso di essere. Siamo nel 2021, ci siamo evoluti, l'amore è amore, senza sesso, senza dover per forza identificarci in qualcosa o senza per forza dover definire questo nostro amore. Quindi penso sia stata un'ottima occasione per aprire la mentalità dei comaschi che purtroppo sono tuttora ancora repressi. Forse fai capire che ci sono altre realtà. Niente, sì, forse è stata una bella presenza, sì. Assolutamente, premiata. È una cosa che a Como serviva, è una cosa assolutamente che era necessaria, perché ci sono tanti giovani qui comaschi che non si sentono far parte di niente, quando in realtà hanno un gruppo a cui appartenere, hanno delle persone che possono sostenerli, che possono capirli in cosa che stanno passando. Conosco tante persone che quando hanno fatto coming out i genitori gli hanno voltato le spalle, li hanno additati come sbagliati, quando tutto questo non è assolutamente sbagliato, anzi l'amore è la cosa fondamentale della vita e come ognuno vuole amare qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra persona non è affar nostro. L'amore appunto, come ho detto prima, è amore e basta. Grazie. Prego. No, va bene, possiamo chiudere la diretta, giusto? Bene, allora se ci sei stato in questa diretta è perché ci sei stato, se non sei stato in questa diretta peccato, l'anno prossimo speriamo che ci sarai. Ciao, grazie.